Quello che incontra il cittadino venendo ai centri per l'impiego sono dei servizi di accoglienza e informazione dove le persone possono rilasciare la cosiddetta DID, che è la domanda di immediata disponibilità al lavoro, come è prevista dalla normativa vigente, perché appunto non dimentichiamo che per il momento, per quello che riguarda i servizi per l'impiego, la normativa vigente è il decreto 150 del 2015, quindi tutto quello che si sta dicendo sulla possibilità di riforma legata al tema del reddito di cittadinanza ancora non c'è. E le volevo chiedere a questo punto quali sono le problematiche che invece riscontrano i centri per l'impiego al giorno d'oggi? Sicuramente una delle problematiche è quella relativa al personale e al potenziamento, perché i servizi per l'impiego escono da una stagione molto faticosa, che è quella del processo di riallocazione istituzionale, cioè che queste competenze erano di carattere provinciale e poi sono passate alle regioni / agenzie per il lavoro, a seconda anche qui la scelta che è stata fatta in seno alle singole regioni. Quindi sono stati anni molto faticosi, perché naturalmente non si capisce bene dove si stia andando, perché i processi sono più lenti di quello che sono naturalmente le preoccupazioni delle persone e di come le persone vivono poi il proprio vissuto lavorativo tutti i giorni, anche perché noi abbiamo comunque continuato a erogare i servizi tutti i giorni, a tenere aperti gli sportelli. Sicuramente questa è stata una fase molto travagliata e in questa fase, per effetto di molti combinati di sport, abbiamo perso anche tantissime persone che siamo mai riusciti a rimpiazzare, e quindi insomma diciamo che davvero gli anni 2014, 2015, 2016 sono stati anni molto faticosi. In Emilia Romagna dal 2016 è attiva l'Agenzia Regionale per il Lavoro, che ha assunto quindi le competenze per quello che riguarda la gestione dei servizi per l'impiego, ivi compresi quelli dedicati alle persone con disabilità. Nel 2017 l'Agenzia Regionale per il Lavoro ha fatto un concorso per reperire del personale a tempo determinato in osservanza a quello che è stato un accordo tra le regioni fatto già a fine del 2016. Quindi noi abbiamo dato via a questo concorso a dicembre dello scorso anno e tra settembre e dicembre di quest'anno abbiamo assunto 150 persone nei nostri servizi per il lavoro. E questo naturalmente è stata una bellissima ventata di ossigeno, non solo perché appunto davvero la situazione a livello di numeri era davvero molto molto molto critica, è stato credo anche un bel segnale anche per i nostri operatori, che sono ripartiti con un po' più di speranza rispetto insomma a una situazione davvero molto molto preoccupante. Questo sicuramente è stato uno degli elementi che in questi anni ha faticato di più, insomma dover lavorare, dover rendere dei servizi a un'utenza sempre più numerosa, sempre più complessa, perché naturalmente voglio dire si complessifica la società, diventano sempre più complessi anche i bisogni, e essere pochi, senza il tempo di poter seguire le persone, senza il tempo neanche a volte di fare appunto la necessaria formazione, i necessari aggiornamenti. Quindi davvero sono stati anni molto complicati. Adesso diciamo che siamo in un percorso, in un processo, abbiamo attivato un processo di miglioramento e di potenziamento vero. Ha qualcosa da dirci riguardo ad altre possibili soluzioni, modelli virtuosi a cui potrebbe ispirarsi la riforma dei centri per l'impiego? Modelli virtuosi, voglio dire, negli anni ne abbiamo visti diversi, no? C'è stato tutto il tempo della flexicurity, dove predominava il modello danese, adesso c'è il modello tedesco, che è quello che pare, diciamo così, più risponda in termini strutturali a quelle che sono anche le idee che il governo, il ministro ha. Io credo che il tema vero sia quello di colmare quelli che sono i vuoti di personale, perché come ormai da diverso tempo riportano anche i giornali, anche alcuni dei quali diciamo hanno fatto anche delle campagne un po' denigratorie, sono stati i servizi per l'impiego. Uno dei problemi è chiaro che in Germania c'è un operatore ogni 70-80, forse 100, noi abbiamo un operatore a 500, quindi è chiaro che in queste condizioni non è possibile parlare di una qualificazione dei servizi per l'impiego, quindi questo è sicuramente credo l'elemento determinante. E poi naturalmente il modello pubblico privato, ormai anche lì dappertutto siamo su una strada per la quale tutti gli operatori esistenti sul mercato del lavoro sono indispensabili al buon funzionamento del mercato del lavoro, pubblici e privati. La scelta è quella di tenere una regia pubblica o pensare a una regia che possa essere anche pubblico-privato. Nella nostra regione è stata fatta la scelta di tenere una regia strettamente in mano pubblica, e anche lo stesso decreto 150, che ripeto è ancora in vigore, aveva questa tipo di scelta, quindi collaborazione, cooperazione, interdipendenza tra i soggetti, con però una forte regia pubblica, perché non dimentichiamo che i soldi anche relativi alle politiche attive sono soldi pubblici, quindi è bene che il pubblico sappia dove poi siano destinati e come vengono utilizzati.